Sono qui in piazza Pulcini con una manifestazione che si sta muovendo nella piazza stessa, perché il corteo è stato vietato qualunque percorso, e quindi adesso saranno 50 persone che stanno facendo appunto il percorso delimitato da dei cordoni di polizia, insomma, ben visibili e numerosi. Ci sono cori, bandiere e quant'altro. La situazione è questa, di una piazza appunto completamente blindata, e peraltro oltre al corteo in questo momento quasi deserta, perché appunto l'aria che si respira è abbastanza poliziesca. Eh beh, sì. Ma ti volevo chiedere, mi senti intanto? Ok, perché volevo chiederti anche, ci racconti un po' di come è nata l'idea di questo corteo, che poi ormai è diventato un po' un presidio mobile, diciamo, però un po' le esigenze che erano alla base di questa mobilitazione, e come mai è stato scelto questa uscita in piazza, ecco. Questa uscita in piazza, questo corteo è nato dalla volontà appunto di dare una visibilità agli spazi occupati, appunto ai posti autogestiti a Firenze, perché insomma in questa fase diciamo vivono un attacco abbastanza consistente, comunque ci sono numerosi sgomberi ogni anno di case, di spazi sociali, e per cui appunto in questa ha cercato di raccogliere le persone che questi spazi appunto li vivono e li animano, o che insomma semplicemente li frequentano, e per cui appunto la manifestazione di oggi sarebbe dovuta andare verso, qui siamo appunto in piazza Puccini, sarebbe dovuta andare verso San Frediano dove per finire in piazza Sasso, che appunto è una piazza molto vissuta, perché l'attenzione come tema io penso si possa parlare quasi in termini simili di quegli spazi della città che non sono occupazioni ma che sono vissute appunto da persone di ogni genere. Certo, e invece perché ora cogliamo l'occasione magari di far parlare un po' le varie situazioni che ci sono lì in piazza, e quindi già che ci sono ti chiedo anche un pochino dell'esperienza dell'area Cani vicino a Viale Corsica, che sta vivendo un momento di precarietà, quantomeno, perlomeno di minacce, di sgombero, e ci racconti un po' anche di questa esperienza, così almeno cogliamo questa occasione di questo presidio, diciamo, per raccontare un po' tutte le istanze presenti. Sì, beh, quella è appunto, me ne posso parlare perché sono dei ragazzi che si è impegnato appunto a tirarla su questa area. Infatti. È uno spazio che era abbandonato, proprietà di Rete Ferroviarie Italiane, abbandonato completamente, del tutto degradato, appunto accanto al parcheggio che sta in fondo a Viale Corsia, e adesso da qualche mese, si sa, da meno di un mese in realtà forse, che c'è un progetto del comune che prevede un parcheggio scambiatore per la linea della tranvia, quella da Careggio al centro, e quindi dovrebbero nei loro progetti che dovrebbero riappianare tutta quest'area che è già un parcheggio prevalentemente, però appunto levando quest'area Cani, rifacendo tutto, e appunto quindi c'è questa situazione di attacco in funzione appunto di quello che è la gestione dei flussi della città, che si può immaginare bene probabilmente siano anche molto legati al turismo, dato che per servire nella tranvia appunto lì dovrebbe essere anche un parcheggio dei pullman. Mi sto un po' perdendo, scusa, non so se... No, è molto chiaro, figurati. Ok, e quindi niente, c'è questo progetto che è in fase, è stato approvato dal consiglio comunale e non c'è stata la programmazione ancora dei lavori, ma appunto nel progetto del consiglio comunale quest'area Cani, che è uno spazio appunto fruibile per il quartiere, anche molto vissuto perché in zona non ci sono spazi simili, non ci sarà più nei loro progetti. Si prevede che forse entro fine anno inizino questi lavori, che per dare due dati aggiungono al parcheggio che già c'è solo 20 posti auto, che infatti sono quelli dell'area Tani. Fondamentali. Costa quasi un milione tutto il progetto, perché prevede tutto il rifacimento dell'illuminazione, del manto stradale, delle simpatiche aiuole molto strette. Inutili. Con l'oleandro, che è la pianta che si usa in autostrada. Velenoso, tra l'altro, perché così i cani magari se le mangiano, stanno male. Esatto. Certo, no, ma infatti un'attività molto illuminata quella del consiglio comunale, sempre solerte, insomma, ci sta regalando delle ottime perle, diciamo, ce l'ha sempre regalate, ma diciamo che di giunta in giunta è un crescendo di meraviglie proprio. Sempre più attento ai cittadini. Sì, sì, sì, veramente al fianco del cittadino e del suo cane. Va bene, e a questo punto se non hai altro da aggiungere io ti lascerei andare e magari ci risentiamo con altri più in là per capire se c'è qualche altro contributo da intervistare. Certo, grazie a te, ciao ciao.